Moi, Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, mic check check 1 2. Sound check, il suono della musica. Di DJ Telesforo. E con quella di stasera approdiamo alla puntata numero 270 del Soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Siete in contatto con il Groove Master Studio di Radio 24. Buonasera a tutti da Gigi Telesforo. E vado subito a salutare e a ringraziare per la presenza, ormai quella che diventerà la presenza femminile costante. Ci siamo finalmente liberati di Francesco Tromba. Naturalmente lo salutiamo, sto scherzando, ma abbiamo acquistato la nostra Silvia Barba, eccola qui. Buonasera a tutti, buonasera Gegè. Bene, ti vedo molto meglio, devi aver smaltito il jet lag dopo questa trasferta newyorkese della quale ci hai parlato, però mi sa che stai già facendo nottate in giro per club e teatri. E sono anche pronta per ripartire per New York, quindi... Ah sì, eh? Sì, bisogna sempre avere un piede a New York. Io continuo a raccontare storie di musicisti che prima o poi, per un motivo o per un altro, si ritrovano a New York a fare non solo gli studi ma a dare il via anche a carriere importante. Qui suona di tutto e vado a salutare e a ringraziare per la presenza l'ospite di domani, nel senso che sei ospite anche questa sera, però domani parliamo della tua musica, di questa pubblicazione che hai fatto insieme a Domenico San, un disco di jazz per una etichetta giapponese, e quindi ringrazio il maestro fratello Joseph Bassi per la presenza. Grazie GG, pace e swing a tutti gli ascoltatori. Ecco, pace e swing a tutti gli ascoltatori. Questa sera ascolteremo un po' di suoni contemporanei, mio caro fratello Joseph, e vorrei anche analizzare con Silvia Barba alcuni dati che riguardano la discografia in Italia e all'estero, ma anche alcune presenze al botteghino. Il botteghino piange un po', come diceva Totò, per quanto riguarda il jazz specialmente, ma tutta la musica di qualità, oserei dire, insomma. Ecco, tutta la musica di qualità. Io non so se tutta la musica di qualità o tutta la musica in generale. C'è un calo di presenze, ma analizzeremo tutto questo con la nostra Silvia. Dove hai rintracciato i dati e le informazioni? Ho fatto una ricerca un po' incrociata, ovviamente, perché i dati che si possono, insomma, ricavare per quanto riguarda l'Italia sono ovviamente, hanno dei parametri diversi da quelli che si possono ricavare dalle classifiche americane o inglesi. Parametri diversi in che senso? Parametri diversi perché il campione evidentemente è più piccolo e non ti dico gli incassi o le vendite, cioè sono cifre che non possono essere assolutamente messe in paragone. Però se da una parte c'è un calo per quanto riguarda tutte le vendite, parliamo dell'Italia, sia da un punto di vista di ingressi ai botteghini, ai concerti, che di dischi, aumenta il prezzo del biglietto. Aumenta il prezzo del biglietto, che quindi non stimola il fruitore di musica e di spettacoli a correre in teatro. No, è questo, se costa di più il biglietto. Certo, se il biglietto costa di più e i dischi continuano a costare anche così tanto, povero ascoltatore, povero... Infatti per questo le nuove generazioni, che sono quelle più pratiche di computer e download selvaggio, si arrangiano andando in internet e cercando di scaricare tutto quello che possono senza neanche utilizzare magari iTunes, che ti permette l'acquisto legale della musica. Oppure scaricano solo il singolo. Scaricano solo il singolo, ma questa io credo che sia una cosa buona, il fatto di avere la possibilità di poter acquistare solo i brani che ti piacciono dopo aver fatto un preascolto, perché esatto. Diciamo la verità, quando tu compri un disco poi ci sono 2-3 brani interessanti, il resto sembra fatto quasi con i piedi, o no? Beh, facendo il lavoro del musicista ascoltiamo musica ogni giorno e arrivano molti dischi da nostri colleghi, sei costretto ad ascoltarli tutti e devo dirti la verità, il buon 40% a volte non sorregge, diciamo, la qualità ipotetica del disco. Ipotetica. Allora, diamo il via alla musica. Abbiamo scoperto qualche settimana fa il talento di un giovane chitarrista inglese, ventenne, 20-21 anni, sì. Dovrebbe avere questo Tom Misch. A noi è piaciuto moltissimo. L'album si chiama Beat Tape 2, giusto? Esatto. Allora, io direi di tornare ad ascoltare Tom Misch insieme a Jordan Rackey con Wake Up This Day qui al Soundcheck di Radio 24. Il talento inglese Tom Misch, Jordan Rackey qui al Soundcheck di Radio 24, e siamo pronti con Silvia Barba ad analizzare alcuni dati che riguardano le vendite discografiche. Vogliamo parlare prima di tutto del nostro paese? Parliamo dell'Italia, sì. Parliamo dell'Italia. Intanto, dove hai raccolto questi dati? La SIAE, allora, te li ha forniti? La SIAE fornisce dei dati per quanto riguarda i concerti soprattutto. Mm. Per quello che riguarda le classifiche ufficiali di vendita e di rapporto dati, mi sono riferita alla FIMI, che è la Federazione Industria Musicale Italiana. Sì, che è l'organo che tutela e promuove le attività connesse all'industria discografica in generale. Detto ciò, vediamo i dati. Allora, su un campione di 3.400 punti vendita tra ipermarket, supermarket, technical superstore, entertainment specialist, che sono appunto le catene specializzate nell'intrattenimento di musica, libri, eccetera, music independent specialist e di internet, anche le piattaforme internet, quindi anche il digitale, anche il digitale, per il primo semestre, parliamo del primo semestre del 2015, è cresciuto complessivamente il mercato del 22%, arrivando a 65,5 milioni di euro. Beh, è un dato confortante, no? Nel 2014 era solo del 53,6 milioni. È un dato confortante. Per ora sì. Che cosa significa però? Il segmento CD, perché ancora è un riferimento, ecco, principale, è cresciuto del 21%, trainato dall'ottima performance del repertorio locale. Il comparto fisico quindi rappresenta il repertorio locale, che le pubblicazioni, le produzioni italiane hanno funzionato. Hanno funzionato, sì. Quindi più del repertorio americano e inglese, mio caro fratello Joseph. Sempre forte anche il vinile, trainato appunto da internet, che comunque può fornire questo scambio a Amazon e tutta questa serie di circuiti dove girano molto i vinili, sì, oltre che nei negozi di dischi, che sale al 72% e rappresenta oggi il 4% del mercato. È molto bello, perché anch'io ascolto i dischi in vinile. Sì, il vinile è tornato, ma ne parlavamo già un paio di anni fa, proprio qui al Soundcheck. Il vinile sta tornando di moda, anzi i dati sono interessanti. Quindi non solo in Giappone gli appassionati di musica ascoltano musica, i loro artisti preferiti utilizzando il vinile, ma anche in Italia mi sa che sta ricominciando questo tipo di vendita, come dicevi tu, agevolata poi dal fatto che si possa fare compravendita utilizzando internet. Immagino non solo le ristampe, ma anche i nuovi progetti. Anche i nuovi progetti. Quindi, mio caro fratello Joseph, il prossimo album ti consiglio di stamparlo anche in vinile. Magari lo vendi ai concerti. Allora, il prossimo artista che vorrei presentarvi si chiama Daryl Reeves. Hai mai sentito parlare di Daryl Reeves? No, onestamente no. Ecco, sassofonista americano, appassionato naturalmente, che viene dal jazz, ma con una particolare attenzione al lavoro di Jay Dilla. Hai mai sentito parlare di Jay Dilla? Vedi quante cose dice. Jay Dilla, famoso producer DJ, purtroppo scomparso, è stato quello, l'artefice di questo nuovo andazzo gruvoso tipico black degli ultimi anni, una sorta di slow beat anche un po' storto che va di moda, con lui hanno iniziato D'Angelo Common. Ecco qui, questo è il tributo proprio di Daryl Reeves a Jay Dilla dall'album The Dilla Aquarium Mixtape di un paio di anni fa. Soundcheck, il suono della musica. Visto che stavamo parlando di Daryl Reeves con il suo sax e il suo quartetto, eccolo qui dall'album che poi ce l'ha fatto conoscere, intitolato Mercury del 2012, con la partecipazione featuring quindi Carmen Rogers in questo brano dal titolo Paradise. Questo è il Soundcheck di Radio 24, stiamo analizzando in compagnia di Silvia Barba e di fratello Joseph Bassi, che poi sarà protagonista della puntata di domani, quella più vicina al suo mondo, che è il jazz. Stiamo analizzando i dati per quel che riguardano le vendite discografiche e fra un po' anche il botteghino italiano e straniero. Quindi il dato è confortante, il mercato in Italia è cresciuto per la vendita della musica da CD e digitale del 22%. del 22%, una spinta molto forte l'ha dato proprio la produzione degli album realizzati qui nel nostro paese, quindi c'è un calo sul pop internazionale, mi sembra di capire. Sì, c'è un calo sul pop internazionale, ma c'è anche un calo da un punto di vista concertistico, la gente non va tantissimo ai concerti e questo è un problema, perché voglio capire, io ecco una cosa che ho notato, e fratello Joseph lo può confermare perché abbiamo fatto tanti concerti anche insieme, è che il pubblico sta invecchiando, fra virgolette, nel senso che non vedo ragazzi, anche quando si va a suonare, ecco, noi lavoriamo nel circuito, quello più piccolo, che non è quello del pop, ma un circuito legato ai festival di jazz e a manifestazioni di questo tipo, ho notato che anche quando si va a suonare, che so, magari ingaggiati dal conservatorio che ha il dipartimento di jazz, poi in platea non vedi gli studenti. Perché? Perché i ragazzi non vanno a vedere i concerti, secondo te, Joseph? A mio parere perché non c'è una comunicazione diffusa e semplice tra l'artista e il pubblico. Mi viene di pensare che nei concerti che abbiamo fatto tutta quest'estate, invece, con Sound Zero, il pubblico era costante, sempre sold out, però c'è una grandissima comunicazione tra l'artista e il pubblico, molto semplice, nel senso che nel caso tuo specifico, tu quando presenti un concerto sei pittoresco, elementare nell'esposizione, nella presentazione, e arrivi al cuore delle persone. Poi c'è un passaparola, ovviamente. Se io vengo a sapere da un mio collega musicista che un concerto è stato bellissimo per determinati motivi, sono il primo che poi mi porta a un concerto. Quindi la tua teoria è quella del network di strada: vado a vedere il concerto, mi piace, lo comunico agli altri. Quindi secondo te la gente non va a vedere i concerti perché gli artisti non comunicano col pubblico? Probabilmente sì, io credo anche che sia questo. Io sono il primo che, quando mi porto ai concerti, lo devo fare perché vivo soltanto di musica, spesso e volentieri dopo mezz'ora dall'inizio del concerto comincio a sentire l'effetto soporifero sia della scenografia, che mi obbliga a guardare lo stage, sia a volte della comunicazione dell'artista. Ecco, quindi per fratello Joseph il calo che riguarda la presenza del pubblico ai concerti riguarda direttamente gli artisti che fanno spettacoli noiosi. Io invece credo che ci sia qualcosa di più... anche forse di più importante, perdonami, che potrebbe essere una mancanza di interesse da parte dei ragazzi. Io chiedevo proprio dei ragazzi, ragazzi che ormai sono abituati a seguire tutto su internet, e quindi se leggono del concerto di fratello Joseph, se lo vanno a vedere in internet e non comprano il biglietto per non spendere soldi e magari utilizzare quei soldi per farsi la pizza, o no? Ah, questo conta, secondo me, perché c'è una fruizione della musica live anche attraverso i telefonini e dei video pessimi, di una qualità pessima, ma messi su YouTube uno ha un'idea di quello che potrebbe essere il concerto e quindi risparmia. Io non so se dipende dagli artisti, dipende anche dal tipo di festival che fa una promozione o meno, dal tipo di club. C'è una difficoltà economica molto, molto forte, questo c'è da dirlo. In questi anni si è abbassato il livello anche economico, oltre che culturale. Poi i club, secondo me, non fanno una programmazione forse troppo adeguata. Ecco, poi dicevi che comunque c'è un calo nelle presenze, ma il costo dei biglietti al botteghino è aumentato. Vedremo anche questo dato dopo aver ascoltato il formidabile collega di fratello Joseph Bassi, Amin Salim, eccellente contrabbassista, ma anche bassista elettrico, anzi ha riaperto la custodia del suo Fender Jazz proprio per questa produzione intitolata The Groove Lab, qui con Mavis Swampool in Best Kept Secret al Soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. Si intitola Blood il nuovo album di Lehan Lahavas, che è tornato in Inghilterra dopo successi incredibili lì negli Stati Uniti. Una bella soddisfazione per l'interprete qui di Green and Gold sbancare il botteghino, i botteghini anche negli Stati Uniti. E sì, il costo del biglietto è aumentato, ne parlavamo con Silvia Barba e fratello Joseph Bassi, però dobbiamo anche raccontare agli amici che ci stanno ascoltando come si fa il prezzo di un biglietto, no? Parliamo di un teatro, non delle grandi manifestazioni. Intanto c'è il noleggio del teatro con tutti i servizi, compresa la pulizia del dopoconcerto. Poi c'è il costo, il budget artistico, la percentuale del promoter, il noleggio dei service audio e luci, il noleggio del backline, che poi sarebbe la strumentazione, quindi proprio batteria, basso, pianoforte e via dicendo. E poi c'è la SIAE e naturalmente l'IVA, le tasse e tutto il resto. Quindi è normale che il costo di un concerto negli ultimi anni è diventato uno sforzo enorme per promoter e anche per il pubblico che deve comprare il biglietto. Il problema appunto è generalizzato, non vale solo per gli artisti, la crisi c'è anche per chi organizza i festival o per i gestori dei club. Pensa a un club che ha meno pubblico e ogni sera deve inventarsi un modo per pagare anche i camerieri piuttosto che il fonico. Infatti fino a un paio di anni fa i promoter, gli organizzatori dei festival venivano aiutati da sovvenzioni statali, dagli enti, dalle regioni, dalla provincia, che mettevano dei fondi proprio per sostenere queste imprese. E siccome i soldi sono finiti, perché non ci sono neanche per rifare il manto delle nostre strade, no? E quindi è normale che poi i soldi vanno tolti all'arte, alla cultura e quindi alla musica. I privati in Italia non sostengono queste iniziative, come facciamo? Dobbiamo andare a suonare gratis, fratello Joseph, o fare un cambio merce? Ti dico, guarda, in un paese in cui persino tutte le orchestre sinfoniche stanno chiudendo e i professori d'orchestra continuano a suonare e neanche fare più il repertorio classico tradizionale, ma piuttosto a suonare canzonette, a suonare con giovanissimi, ancora imberbi, cantanti, pur di vendere qualcosa, a me viene di pensare che è un momento critico, oserei dire soltanto più in Italia, perché queste grandi e nobili orchestre, pur di guadagnare qualcosa al botteghino, devono scendere a questi enormi compromessi. E per me, che qualche volta lavoro con l'orchestra sinfonica, è mortificante vedere grandi musicisti che lavorano da 30 anni dover fare delle arcate insulse, insomma, cose che non avrebbero mai pensato di fare. Quello che manca, secondo me, nel nostro paese è la curiosità, che è una cosa che va oltre la mancanza di cultura, perché negli altri paesi dove non si conosce magari bene la musica continua a esserci curiosità, per cui il pubblico che si vede in un paese come la Cina è sconvolgente, anche per me che non sono per nulla conosciuto in Cina. Sì, e non sei cinese. E non sono assolutamente cinese, ma è un piacere vedersi 5.000 persone sotto la pioggia battente per un concerto, e in Italia questa cosa non avverrà mai. Ecco, questo è il pensiero di fratello Joseph Bassi, che sarà ospite domani sera, e domani sera con lui parleremo di jazz. Siamo quasi all'informazione di Radio 24 e quindi vi lasciamo per qualche minuto in compagnia di Sly Fifth Ave con Club Casa Chamber Orchestra. Questa è un'orchestra abbastanza particolare che rivisita Super Rich Kids di Frank Ocean. Qui al soundcheck di Radio 24, torniamo dopo l'informazione. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Puntualissimi dopo l'informazione di Radio 24, qui dal Groovemaster Studio per la seconda parte del soundcheck di questa sera, con nostri ospiti fratello Joseph Bassi, che in questo momento è alle prese con un vecchio K-Bass del 1937, contrabbasso realizzato a Chicago, quello proprio utilizzato dai musicisti bebop, e la nostra Silvia Barba, oggi piena di informazioni che riguardano vendite discografiche, vinile, ma anche incassi al botteghino. C'è stata una crescita, tanto per ricapitolare velocemente, una crescita del 20-22% sul comparto discografico, CD ma anche digitale, ma un grosso calo al botteghino per concerti e spettacoli, probabilmente dovuto a un aumento dei costi del biglietto, e abbiamo anche analizzato come si fa il costo di un concerto. Vediamo altri dati, Silvia. Gli unici concerti, insomma, che alzano un po' questa asticella. Questa asticella per quello che riguarda appunto le presenze sono quelli ovviamente di musica leggera. Nel 2014 ovviamente i Rolling Stones hanno fatto il pieno in Italia, a seguire i Pearl Jam e gli One Direction. So che sei felicissimo. Ma il pieno in Italia con il concerto fatto il a 22 Roma, giugno, con tutta la polemica. Esatto, no? Cioè, esatto. Gli italiani che compaiono, gli unici due italiani che compaiono in questa classifica di vendite molto alte sono Vasco Rossi con il concerto a giugno del 2014 e Ligabue. E Ligabue, vabbè, riempiono sempre gli stadi quando fanno i loro gli stadi. Eventi. Beh, quindi questi sono eventi che alzano l'asticella alla media, però. Esatto, da un punto di vista concertistico, sia la musica classica che la musica leggera che il jazz sono in diminuzione del circa 3,5%. E infatti fratello Joseph ci stava raccontando che anche i grandi concertisti di musica classica per lavorare poi sono costretti a fare quello che fanno i musicisti, perché quando tu decidi di fare il musicista e non l'artista, no? Perché già artista è un musicista che ha consolidato la propria carriera e vive facendo solo ed esclusivamente la propria musica, ma quando decidi di vivere da musicista devi avere una preparazione che ti permette di poter affrontare qualsiasi tipo di percorso sonoro, dal rock and roll, rockabilly, punk a bestia, jazz e musica classica. Dovrebbe essere così, se non fosse che i nostri musicisti vivono la musica un po' a compartimenti stagni. Se vai invece, parliamo sempre di New York, ma quei musicisti hanno una solida base musicale, una preparazione che consente loro anche per mentalità di affrontare repertori diversi. Sì, io penso che il problema di natura culturale ovviamente sia anche da affrontare in termini di politica. Io non ho le qualità e le dialettiche, le competenze per fare politica di questo, però voglio dire, se non si comincia a parificare una materia come la musica alle materie letterarie, non ne usciremo mai da questo problema, secondo me. Non è una cattiva idea, infatti è proprio così, è vero, perché già nelle scuole la musica è un po' come un'ora di ricreazione o di ginnastica, anche quella è importante. Quando c'è. No, invece avrete notato che negli Stati Uniti dalle scuole poi vengono fuori grandi musicisti, ma anche dei campioni di football americano o di pallacanestro e via dicendo. Va bene, e invece passiamo a una storia molto triste, quella del sassofonista Jimmy Green, che ha perso la figlia quando la bambina aveva 6 anni, in maniera che è anche difficile da raccontare. E questa è la contraddizione americana, che poi possono avere tante cose belle, ma insomma girano anche spesso con le pistole nello zaino e fanno stragi. Qui si parla della Sandy Hook Elementary School di Newton in Connecticut, dove questo ventenne Adam Lanza ha fatto strage di bimbi, tra cui la figlia di questo sassofonista. Ecco, Jimmy Green quindi dopo 2 anni è tornato a produrre musica, sostenuto dai colleghi e dal suo producer discografico, e ha realizzato, pensando quindi alla figlia, questo album dedicato alla bambina intitolato Beautiful Life. Il brano è splendido, commovente, con la voce di Xavier Colon, When I Come Home. Soundcheck, il suono della musica. Terry Walker torna con il singolo Open Your Mind, l'abbiamo già presentato qui al Soundcheck di Radio 24, dove ci stiamo intrattenendo con fratello Joseph Bassi, che sarà protagonista della puntata di domani sera con il suo contrabbasso, per raccontarci di questo album realizzato con un'etichetta giapponese insieme al nostro amico Domenico Sanna al pianoforte. Silvia Barba ha tutti i dati possibili e immaginabili sulle vendite discografiche nel nostro paese e all'estero, ma anche sugli incassi al botteghino, e quindi dall'Italia passiamo direttamente agli Stati Uniti. Allora, parliamo degli Stati Uniti come appunto con delle cifre ovviamente molto diverse. Nella top 25 dei concerti più seguiti troviamo al primo posto, con un incasso di 27 milioni di dollari. Mamma mia! Ecco le cifre, per dirti, i Rolling Stones. Ecco, sempre loro, Sempre loro. Si fanno incassi dappertutto. 2014 hanno fatto belle cose. Che bella pensione che avrà. Guarda, a seguire, a sorpresa, se vogliamo, c'è Paul McCartney con 23 milioni di dollari. E quindi tutti i ragazzini. E poi One Direction. Oh, finalmente il primo gruppo. Si abbassa il target, la media. Esatto. Per quello, e ovviamente i dati sono incrociati tra le presenze, il numero di show che sono stati fatti, e quindi si fa un'altra classifica che sono i 25 tour più seguiti, e al primo posto ci sono gli Vabbè, One Direction. Però a parte le grandi tournée, anche in Italia, ce l'hai detto, Vasco Rossi, Ligabue, no? Artisti, o Jovanotti, no? Artisti che fanno l'incasso negli stadi. Io voglio sapere i dati sulla musica militante, quella nei club, come va negli Stati Uniti? La musica militante va bene, evidentemente. Ci sono tutte delle classifiche che potete consultare non dai siti ufficiali ma da Billboard, che è il riferimento principale perché divide le classifiche ogni settimana per generi, quindi jazz, country, gospel e blues, qualsiasi cosa, ma si riferisce ovviamente alle vendite e ai download che i giovani principalmente fanno attraverso, insomma, anche i social media, tanto che Twitter è anche considerato attraverso le menzioni che gli artisti hanno e che quindi hanno visibilità per poi avere un indotto da un punto feedback. Di vista. Allora, fratello Joseph ha vissuto a lungo negli Stati Uniti, esattamente a New York, dove vivevi da musicista, facendo il contrabbassista di jazz. Ma tu potevi suonare? Perché negli Stati Uniti lavorare non è facile. Beh, quando si tratta di è chiaro, voglio dire, sicuramente il governo americano non sta lì a controllare un contrabbassista di jazz che va a suonare jazz per noi New York è la Mecca, quindi cosa si può guadagnare, come si può controllare il guadagno di un jazzista a New York. Ecco, come vivi un musicista di jazz o un musicista militante a New York? Quanti concerti al giorno devi fare per portare a casa uno stipendio, insomma, per pagarti poi l'affitto, mangiare tutti i giorni? Beh, all'epoca quando ebbi l'artist visa, quindi avevo il diritto di poter lavorare, potevo suonare circa 5 o 6 volte alla settimana e a volte in un giorno avevo anche 2 o 3 gig. Poi noi italiani siamo particolari, siamo speciali, per cui girando per le strade di New York avevo rintracciato ristoranti italiani o messicani o che avessero un pianoforte, e quindi andavo anche a propormi per poter suonare, quindi poter lavorare. Quindi non per andare a servire tacos e pizza, ma a volte, no, si fa anche quello per fare il musicista agli esordi. Allora, hai fatto anche quello, no? Allora, passiamo alla musica. Liz Wright, ti piace? Mi piace molto. Ha 35 anni, è originaria della Georgia negli Stati Uniti ed è una vocalist molto apprezzata che vanta appunto collaborazioni con artisti del calibro di Danilo Perez, Amos Lee, Gregory Porter e il famosissimo armonicista belga Tielemans. Ah, allora Liz Wright con You al Soundcheck. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. A grande richiesta, Shantae Khan con Snarky Puppy in Da Da and Da qui al Soundcheck di Radio 24. Abbiamo analizzato i dati sulle vendite discografiche, i botteghini, gli incassi e botteghini in Italia e negli Stati Uniti. Invece andiamo in un altro grande mercato per quel che riguarda la musica, ormai da sempre, che è l'Inghilterra, ovvero Gran Bretagna. Che succede lì? Allora, per consultare i dati e le classifiche che ogni settimana anche in Inghilterra vengono fatti, possiamo andare su officialcharts.com che attraverso appunto un suo sistema particolare riesce a rilevare i dati. In queste settimane, per essere più generici, perché ovviamente i dati si fanno a fine anno e non ci sono per ora, il gruppo che più emerge sono Rudimental con With The Generation e Ed Sheeran, che tra l'altro nelle scorse settimane ha battuto un record pazzesco, che sono i click su Spotify, perché adesso anche quello verrà considerato ovviamente un apporto importante per le visualizzazioni e per l'ascolto di musica. Lui ha fatto 500 milioni di visualizzazioni. Ecco, poi però tutti questi click non si traducono in tanti soldini. Per avere soldini dalla vendita digitale veramente devi fare milioni e milioni di click, e questo te lo dico perché pure io da compositore ricevo, mio caro fratello Joseph, ogni semestre il report che riguarda le mie modeste composizioni, e quindi ogni tanto adesso mi arrivano dei fascicoloni con 10, 20, 15 pagine. Allora ho detto mamma mia, quanto musica hanno suonato nel mondo questo semestre dal mio repertorio. Vado a vedere, sono tutti click digitali, e quindi poi alla fine centesimi. C'è sempre un assegno da disgraziato per quel che riguarda la mia. Non so a te che succede. Non ne parliamo, guarda, io ormai sono 3 anni che sono, non posso, sai, i miserabili di Vittor Hugo, peggio diciamo. Però tu hai un risvolto pazzesco in Oriente, parlami di questa cosa, Giappone, Cina, Taiwan. Discorso di prima, insomma, non è che ho un riscontro perché sono conosciuto, sono famoso, no, perché è un popolo dove c'è una curiosità, adesso si sta sbarcando la cultura, quella vera, quella che anche noi abbiamo pensato non potesse prendere piede nell'estremo Oriente. Adesso è lì che si può far musica, è lì che si può fare ogni tipo di musica. Si sono aperti anche alla musica italiana, alla grande musica classica. Paradossalmente le loro orchestre sinfoniche adesso suonano molto molto di più, e tutto il repertorio europeo della grande musica classica, e non le nostre orchestre. Ma questo, scusami. Voglio confermare, perché io ho fatto l'esperienza in una tournée incredibile in Cina diversi anni fa insieme al mio amico Renzo Arbore, con il repertorio dell'orchestra italiana, quindi facendo il songbook napoletano, e vedere i cinesi che cantavano Sole Mio fu una grande sorpresa anche per me. Direi di fare un'altra pausa con la musica. Scusami Silvia, non so cosa volevi dire, ma dopo, ce lo dici fra pochissimo, dopo Motion Worker. E questo mi piace tanto, perché lui è un bravo musicista, bassista, figlio d'arte, il papà è stato un producer discografico di fama internazionale, insomma, neanche ne parliamo. Motion Worker si diverte, mio caro fratello Joseph, a utilizzare campionature prese da vecchi dischi degli anni 30-40 con le orchestrine jazz e swing di quel periodo, e a realizzare poi groove portentosi, dance e anche un po' acidi in alcuni momenti. Il brano si intitola Soul Swing per Motion Worker al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Un artista prodotto dalla Rope Dope di New York, Mark the Clive Lowey, con la partecipazione di John Robinson come rapper nell'ultima parte di questo brano intitolato The Mission. Mi piace tantissimo l'atmosfera creata da questo artista ormai residente a New York, anche lui. Se ne vanno tutti lì, a parte fratello Joseph, che invece prestissimo si trasferirà a Taiwan, paese di nascita della consorte, anche lei contrabbassista. Ma parleremo di fratello Joseph e anche di tua moglie Sherun nella puntata di domani sera alle 19:15, visto che parleremo di jazz e ascolteremo l'album che hai realizzato insieme a Domenico San. Siamo arrivati ai saluti, mia cara Silvia. Sì, è bello. Volano queste puntate. Volano, sì, quando c'è buona musica succede questo. Però mi avevi detto una cosa interessante, che fra i dati sulle vendite discografiche, giusto? Sì. Per quel che riguarda il comparto generale della musica, negli Stati Uniti c'è un solo artista di jazz che fa capolino. In questo momento sì, che è il prossimo artista che stiamo per ascoltare, Kamasi Washington, con Kamasi il suo Washington, album Epic. Epic, album incredibile, non so quante tracce, quanti brani abbia realizzato, poi hanno deciso di stampare soltanto una ventina di composizioni. Comunque, e tra l'altro è anche un artista molto richiesto dai musicisti hip hop e contemporary R&B con gli arrangiamenti. Kamasi Washington attivissimo, anche noi lo siamo, però siamo pronti per andare a cena, a mangiare qualcosa, e ci rivediamo domani sera 19:15, sempre soltanto su Radio 24. Grazie a Giuseppe Bassi, as known as fratello Joseph Bassi, a Silvia Barba. Grazie Gigi Telesforo. Grazie.